bel trenino. Dai, una bella trenata. Dai, facciamo il trenino. Vai, Rosanna. Lancia i vagoni, Rosanna. Bravo, Mario. Ciao. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti. Pronti tutti quanti a cantare? Ale, che se ne va. Tutti insieme adesso. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Più forte, vogliamo sentirvi. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Bravi. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Rosi, Rosi, Rosi, Rosanna. Rosy, dedicata a Rosy, diminutivo di Rosanna. Rosy, Rosy, Rosy sosteneva le sue illusioni. Rosy, tutta per te. Rosy, Rosy, Rosy prometteva parecchie fiori. Rosy, Rosy aveva un coccodrillo ed un dottore. Mario, fai il dottore. Rosy non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ai ai ai ai ai. La festa, la festa è finita e viva la vita. La gente si sente, comincia un mondo diverso, ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà. Oh yeah. Rosy, Rosy, hai un mondo ai, diverso. Mimmo con il grande sax. Rosso. Ba da ba da da ba da da ba da da ba da da da ba da da ba da da ba da da ba da da da da. Siete meravigliosi. Bravi.